malapena riesco a mandar giù. Now body, welcome to the radio connection. Che appetito insieme a te, at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Now Boarding ritorna dagli Stati Uniti, ritorna in Europa. Bentornati su 102.200 di Radio Sandonà o su www.radiosandona.it. Lorenzo, bentornato anche a te, come stai? Ciao. Sto benissimo. Fantastico, io invece ho del mal di testa, quindi vediamo Bene. Di non far troppa confusione oggi e volumi bassi, per favore. Ok, dai, allora oggi facciamo una puntata con un po' di musica soffusa. Andiamo a Bruxelles e stavolta c'è una nuova novità con Now Boarding, che ogni settimana ci regala una novità, perché siccome la nostra programmazione non ha, diciamo, un fondamento, ogni volta ci inventiamo qualcosa di nuovo, e stavolta abbiamo due ospiti insieme, faremo una specie di intervista doppia, due cavoletti di Bruxelles. Eccoci con Francesco e Andrea, mi sentite? Forte e chiaro, sì. Ciao ragazzi, benvenuti. Bene, allora, Francesco, per farti raccapezzare, ti spiego. Allora, Francesco ha l'accento più abruzzese, mi sembra, se non sbaglio. E... Vero, vero. Ecco, mentre Andrea non sono riuscito a capire da dove viene, probabilmente ha un accento, non ha accento, ha un italiano perfetto. Allora, spiegateci un attimo, uno alla volta, non... sovrapponetevi e spiegate come è iniziata la vostra esperienza a Bruxelles e di cosa vi state occupando in questo momento. Ok, ciao ragazzi, io sono Francesco, dei due bruxellesi on Skype in questo momento. Mi occupo qui a Bruxelles, diciamo che sto cercando di fare un po' di esperienza. Sto finendo i miei studi e sono qui ad una a Bruxelles presso un'agenzia pubblica italiana, e mi sto occupando di europrogettazione, quindi cerco di, insomma, di imparare a scrivere progetti, fare progetti che poi possono essere finanziati dall'Unione Europea, e nello specifico mi sto occupando di energia, quindi progetti che riguardano la ricerca scientifica sulle risorse rinnovabili, l'energia nucleare, piuttosto che nuove materie o biotecnologie, cose del genere. Però sono un scienziato politico sostanzialmente, cioè... Tema attualissimo, no. Questo Andrea invece? No, io sono qui, ho finito i miei studi, sono, diciamo, l'anno scorso sono salito dopo un'esperienza in Italia, e diciamo che per un'organizzazione italiana che si occupa un po' di guardare il funzionamento delle istituzioni europee e di interessi industriali, e quindi dopo un 4 mesi di esperienza in Italia per questa organizzazione sono salito a Bruxelles e rimarrò per i prossimi 8 mesi, e finiti questi 8 mesi sarò chiaramente come molti altri alla ricerca di qualcosa. Beh, dai, magari avrai già un curriculum grazie all'esperienza anche estera che ti permetterà magari di trovare facilmente qualcosa, non credi? Oddio, diciamo puoi che... rispondere no, eh? Ma rispondo oddio. Oddio, non ci voglio pensare. Ok, allora chiediamo a Dio, cioè ci affidiamo a Dio in questo caso. No, nel senso che comunque in teoria sì, però l'esperienza all'estero non è detto che sia particolarmente apprezzata in Italia, e comunque è una cosa data per scontata all'estero, quindi voglio dire, non è che ti metta sicuramente nella posizione di finito qualcosa trovare un altro posto. Cioè, sicuramente è un passaggio importante e fondamentale, ma non è la garanzia per un lavoro sicuro. Assolutamente, assolutamente. Poi abbiamo un grosso gap sostanziale, diciamo noi italiani, che è quello che, mentre gli altri arrivano qui a Bruxelles, per esempio, che comunque al mondo è la città, insomma, la capitale mondiale dove ci sono più rappresentanti diplomatici, di ambasciate, consolati al mondo, quindi comunque c'è un grosso giro di internazionali, e tu vedi questi ragazzi 22, 23 con gli studi finiti, curriculum della Madonna, che veramente hanno poco a che fare con i nostri, in senso positivo per loro, non per noi, e per cui è un po' complicato, nel senso l'esperienza sicuramente che stiamo facendo, perlomeno io e Andrea, è molto importante, conta, però non è assolutamente un'assicurazione sul futuro, anzi, finiti questi stage, punto a capo. Quindi vi, diciamo, vi confrontate con i vostri coetanei di altri paesi e vi trovate con un curriculum più magro? No, ma è, cioè, se ci confrontassimo con i coetanei 25-26 credo che sarebbe ridicolo, perché 25-26 è gente che ha un lavoro. Io in effetti ho 25 anni e per riempire il mio curriculum metto tipo anche le esperienze, non so, ho fatto servizio all'oratorio, sono stato, non so, un giorno ho aiutato una vecchietta a attraversare la strada. Bisogna... Sì, ma... Che se tu prendi per esempio, non so, i francesi o comunque questi, loro finiscono gli studi alle superiori prima rispetto a noi, quindi arrivano all'università che hanno mediamente uno, certe volte due anni meno di noi rispetto all'età media in cui una persona accede all'università. Dopodiché i loro programmi universitari prevedono obbligatoriamente magari stage o di esperienze all'estero, che generalmente l'università gli trova, quindi non è sempre che loro devono cercare, e quindi alla fine finiscono gli studi, se sono in regola con tutto, a 24 anni con già magari due esperienze lavorative come stage, perché erano obbligatorie all'interno dell'università, e quindi questi qui quando hanno 26 anni stanno già lavorando seriamente. Quindi una formazione molto più integrata con il mondo del lavoro e che li mette prima nel mondo del lavoro, no? Precisamente. Solamente in Francia o anche in ragazzi provenienti da altri paesi hai notato questa cosa? Comunque, tranne in Italia, credo in Spagna ci sia lo stesso problema. Sì, un po' nei nostri paesi, diciamo, l'altra sponda. La sponda mediterranea. Sì, tolta la Francia un po', che comunque è un'eccezione da questo punto di vista. Ok, allora è colpa del Mediterraneo, possiamo dire. O è grazie al Mediterraneo, non so se... Fa bene perché respiri lo iodio, però poi non trovi un lavoro. Ok, allora andiamo subito col primo pezzo. Questa volta abbiamo spadroneggiato io e Francesco nelle scelte, lasciando agli ospiti l'onore della scelta finale. Comunque partiamo col primo pezzo che ho scelto io. Sono i Red Zebra, sono un gruppo punk belga con I Can't Live in a Living Room. Tra l'altro, Lorenzo, ti vedo già un po' in difficoltà, questa sarà una puntata insidiosissima per gli aggettivi. Io dirò sempre del Belgio. Sì, no, è che sì, in effetti io sono in difficoltà sul plurale perché vorrei dire belgi, ma non mi suona talmente male. Non so, comunque sono del Belgio. Ok. We'll be right back. faces. You are all laughing with me. But doctor, doctor, can't you see the things that happened to me? Erano i Red Zebra o Red Zebra e noi ritorniamo collegati con Bruxelles, sempre a Nowboarding. Francesco e Andrea, io vi vorrei un po' chiedere com'è iniziata la vostra avventura, cioè da quanto siete lì intanto? Ma io sono qui da un mese circa, no, ormai quasi due a dire la verità, perché sono arrivato ad aprile. Io invece per altre vicissitudini di ricerca dello stage e tutto, praticamente ho lasciato l'Italia da febbraio sostanzialmente. Da febbraio 2011, quindi insomma 3-4 mesi, no di più, sì, 3 mesi. L'avevi già trovato lo stage quando sei partito o l'hai trovato dopo che ti sei trasferito? Questa è stata una esperienza molto interessante perché in pratica è estremamente complicato, nonostante ci sia un grosso ricambio, una grossa domanda di stagisti, di schiavi sostanzialmente. Stanno costruendo delle attenzione. Piramidi. Sono gli schiavi del 2000, degli anni 2000 alla fine, gli stagisti. È verissimo, nel senso che è comunque veramente un mercato dove il mercato non è, perché in realtà loro ottengono un supporto, in realtà lo stagista sì, ha un'esperienza importante da mettere nel curriculum e tutto, però in realtà molto spesso non viene neanche pagato, come per esempio non sono io in questo momento. Certo. È molto interessante perché ho avuto bisogno di un mese e mezzo tra invio di email, di curriculum e di colloqui sostanzialmente per trovare quello, diciamo, lo stage nel quale adesso sono impiegato. E per il prossimo, visto e considerato che ci ho messo 2 mesi per il primo, mi sono già, diciamo, mosso praticamente non appena avevo la conferma del primo stage, già ho iniziato a cercare il secondo. Ma voi vi conoscevate già prima di trasferirvi lì o vi siete conosciuti a Bruxelles? Ci siamo ribeccati a Bruxelles perché io non sapevo che lui fosse su, noi ci conoscevamo dall'università perché abbiamo studiato assieme. E quando sono salito, tramite giri traversi, sono riuscito a sapere che era qui e quindi stavamo cercando casa tutti e due, per cui abbiamo deciso di cercare assieme per aumentare le possibilità di trovare una casa. Ok, quindi insomma un po' una piacevole sorpresa. Io mi immaginavo che voi così per strada, camminando, una scena così... Ehi, ma tu sei quello... Sì, sono io, e tu chi sei? Ok, e invece ci raccontavate via mail, colloquio preventivo via mail, che c'è stato uno spiacevole evento che vi ha coinvolto ultimamente, ovvero siete stati vittime di un furto. Ci potete raccontare cosa è successo e come avete gestito la cosa? Si può bestemmiare via radio, no? non abbiamo il beep a portata di mano. Però essendo noi un paese leghista puoi bestemmiare in musulmano. Okay. Cosa che a Bruxelles è abbastanza semplice, però non si sente. No, comunque, la questione della casa è stata molto, molto divertente, la casa in generale. L'ultimo, la ricerca della casa, la sistemazione della casa è stata molto figo. Figo ovviamente in maniera sarcastica. Ma quest'ultima, quest'ultimo avvenimento è stato proprio divertentissimo, ma proprio tanto divertente. In pratica siamo stati derubati da una baby gang di due ragazzini, età dei ragazzini, 15 anni. Che avevano già un curriculum, tra l'altro, più... Credo che di tutto rispetto. No, in realtà credo proprio di no. Forse è proprio degli stagisti, da questo punto di vista. Ok. Efficienti. Cioè, questi ragazzi sono entrati dalla finestra della mezzanina dove vivo io. Il soppalco. Il soppalco. Mm-hmm. I belgi hanno questa concezione delle case a soppalchi. Cioè il piano tipo salotto, cucina, poi c'è un altro piano che non è chiuso ma è aperto, dove la gente dovrebbe andare a dormire. Soppalcano qualsiasi cosa in Belgio, cioè occhio. Mentre da noi appaltano, da loro soppalcano. Quindi questi sono saliti dalla mezzanina del soppalco, ok. Davanti a loro avevano un MacBook sostanzialmente acceso, perché stavo sostanzialmente scaricando della roba. Un Mac acceso, e questi deficienti cosa hanno fatto? Sono scesi sotto, che è abbastanza arduo perché le scalette belghe sono belle toste. Abbiamo delle scalette che sono un pochino instabili. Non viviamo in un tugurio, sono proprio in Belgio. Ah, ok. Non sanno fare le scale in Belgio. Sono per le scale, ma tante cose. Tra le altre cose le scale. E sono scesi, sono andati a cercare il computer del mio coinquilino, che era nascosto, notate bene, nascosto, dentro una borsa, dentro la valigia, dentro l'armadio. Hanno visto che la valigia non era apribile, hanno preso un coltello della nostra cucina, hanno forzato macellato la valigia per prendere quel cazzo di computer e si sono dimenticati anche il caricatore. Bene, cui, ok. Non finisce qui. I furboni, visto e considerato che non avevano il caricatore, sono tornati il giorno dopo. Con noi dentro. Ma quindi la prima volta voi eravate fuori casa, mentre quando loro giustamente, no, sono venuti a prendere il caricabatterie, eravate in casa? Sì, diciamo che ci hanno provato, nel senso che noi il giorno prima ci siamo accorti del furto, abbiamo chiamato la polizia, abbiamo denunciato la cosa. Il giorno dopo stavamo a casa perché dovevamo aspettare la scientifica per rilevare le impronte, fare tutte queste cose stile CSI, però in maniera molto meno figa. E quindi sentiamo rumori sul tetto alle 9 di mattina, ci affacciamo, cioè, o meglio, ci svegliamo, controlliamo, e c'era un ragazzino che stava cercando di entrare in casa nostra sempre dalla finestra, perché l'avevano rotta la finestra la volta prima, quindi non era ben chiusa, e quindi l'abbiamo visto. Allora abbiamo cercato di rincorrerlo sui tetti. Bellissimo. No, è veramente una scena epica questa. Mi metti Mission Impossible la colonna sonora sotto. Sì. Che poi è come quelle scene dei film in cui i ladri rubano la borsa, però magari rubano la borsa sbagliata e si ritrovano che devono tornare indietro perché sono dimenticati una cosa, no? È tutto molto molto bello, insomma. E, ma alla fine la cosa come si sta concludendo? Allora, abbiamo avuto la visita di 8 sbirri nel giro di un giorno e mezzo, e questi 8 sbirri non sono riusciti a ritrovare i ragazzini. Al che la mattina, quindi, io e Andrea ci siamo rimboccati un po' le maniche, siamo scesi in strada e abbiamo iniziato a chiedere a destra e a sinistra se avessero visto ragazzini del genere. Dopo un'ora e mezza di ricerche, giuro, non di più, sapevamo come si chiamavano, dove abitavano. Fantastico. E quali erano i loro orari, tipo che ora tornavano a casa. Benissimo. E gli abbiamo mandato gli sbirri a casa, adesso dovrebbero essere dentro tutti e due. E quindi avete anche iniziato uno stage presso la polizia belga, praticamente? No, se fate i belgi io chiedo direttamente di essere ufficiale. Siete diventati delle specie di Sherlock Holmes di Bruxelles, praticamente. ma il computer l'avete recuperato alla fine? La cosa triste, no, perché a quanto pare lavoravano quasi su commissione, nel senso che probabilmente avevano già la lista delle cose che gli servivano, e quindi una volta prese si sbarazzavano subito di queste cose, quindi in realtà abbiamo perso tutto e dovremmo costituirci parte civile nel processo, che, diciamo, una cosa abbastanza rincuorante è che la tempistica è rincuorante, in senso chiaramente ironico, è che comunque la giustizia belga è paragonabile a quella italiana per tempistica, quindi prima di 3 anni non avremo nulla in mano, se ci va bene, altrimenti saranno dai 3 ai 5 anni che dovremo aspettare per avere anche un minimo di... No, siamo molto grandi, però in realtà Bruxelles per mente onestà, da questo punto di vista, è estremamente pericoloso. Non è la prima volta che si sa, che sente di queste cose. Anche Andrea, per esempio, il tuo capo, ti ha detto che non era la prima volta che capitava uno stagista. Ah, no, okay. Cioè, è una cosa abbastanza, quasi tutti per tirarmi su di morale dicevano: ah no, ma tranquillo, è una cosa normale, sono stati derubati quasi tutti i miei amici, io compreso, quindi... Ah, okay. Bene, perfetto. Poi se la polizia, insomma, è così, così sveglia, direi che derubare è un gioco da ragazzi. Io comunque ieri ho trovato un'offertona di un computer di seconda mano da Bruxelles. Senza caricatore? Sì, senza caricatore, ma ho preso quello universale, quindi non c'erano problemi, insomma. Quindi al limite ve lo rimandiamo noi, il vostro computer. Ecco. Perfetto, allora se magari vi mando la password, così controllate che sia proprio il mio, così almeno siete sicuri. Sì, altrimenti mi tocca formattare, sai? Non è una bella cosa. E infatti io Bonetti, però cazzo, non me lo fate incazzare. Proprio dai verbali della polizia belga ci sono le testuali parole che loro hanno detto al ragazzino, che è tipo: "Where, Robert, you can't always get what you want." è proprio, queste sono le testuali parole, e abbiamo anche una registrazione, sì, per l'occasione, fatta dagli Stones e remixata dai Soulwax, altro gruppo belga. Quindi sentiamo un po' cosa gli hanno detto. I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Oh, yeah. Ok, puntata su Bruxelles con due ospiti in contemporanea, Francesco e Andrea. Eccoci tornati e dunque continuiamo a parlare un attimo della sicurezza per chi vive all'estero e in generale di come vi siete ambientati voi in questi primi tempi e come avete trovato l'appartamento e come vi siete organizzati, ecco. Quindi partiamo dalla sicurezza. Beh, mi viene da dire una cosa un po' simpatica, più che altro sempre sull'aneddoto di prima, che però è indicativa di tutti, diciamo, i fenomeni che ci siamo trovati davanti nel cercare di risolvere questa questione, quelli che sono stati determinanti, o perlomeno che ci hanno dato la mano più grande, erano italiani. Uno era il proprietario del palazzo dove i ragazzetti abitavano, e l'altro era il poliziotto italiano di seconda generazione che ci ha dato una mano, quello che fisicamente sostanzialmente andava a prendere questi ragazzi. I due mandanti del furto, in pratica. Esatto. Però è stato molto interessante. È stato molto interessante vedere anche come, nonostante a Bruxelles ci siano veramente tantissimi italiani di ogni sorta, dall'onesto al meno onesto, al seconda generazione, all'arrivato ieri. Comunque c'è comunque un certo livello di collaborazione, che però non è sempre, come dire, non è sempre d'aiuto. Per esempio, per la casa, per quanto mi riguarda, non lo è stato minimamente. Affidarsi agli italiani per cercare una casa a Bruxelles è l'ultima cosa da fare. No? Come mai? Ma perché questo era un amico di un amico di un amico e mi ha proposto un appartamento di una cifra ridicola, veramente altissima. Poi, insomma, abbiamo risolto altrimenti, però diciamo che va bene provare il network italiano in giro, ma va bene anche essere un po' più indipendenti, provare anche a mescolarsi un po' di più con la gente del luogo. Infatti ha avuto successo. Cioè, vanno bene un po' tutte e due le cose, nel senso che non è che per forza perché magari ti rivolgi a qualcuno che è di origine italiana o magari è italiano, sicuramente farei un affare, come dappertutto. Hai delle volte in cui ti può essere d'aiuto, soprattutto se conosci direttamente le persone sue, quindi magari ti possono dire se c'è qualche appartamento libero, se c'è qualche stanza, se... Quindi questo ti aiuta. Un'agenzia è pur sempre un'agenzia, e magari italiano o non italiano non è che ti faccia condizioni speciali, eccetera. Anzi, se magari sei un po' di fretta che cerchi da casa, parentesi, mai fidarsi o perlomeno insomma fare molta attenzione quando si cerca appartamento, a non prendere le cose che si trovano in internet senza visitare l'appartamento, perché 9 volte su 10 sono delle fregature incredibili, nel senso che il soppalco del soppalco. Sì, esatto. Sì, ma è il soppalco virtuale, un soppalco che non esiste. Quindi esatto, o non esiste l'appartamento, oppure se esiste è davvero una catapecchia incredibile. E a proposito, una volta un amico mi ha mandato a vedere un appartamento, a Bruxelles, mi ha mandato a vedere un appartamento in una via molto importante di Bruxelles, Rubelier numero 54. Sono andato a vedere, c'era il 52, il 53 e poi finiva la strada. Ecco, segnatevelo questo indirizzo, perché è come dire ci vediamo il 30 febbraio, che non... Esatto, a me quando stavo cercando via internet, per dirvi, su un paio di siti così che mi avevano consigliato, ho avuto da due indirizzi diversi che mi indirizzi internet, indirizzi fisici delle case dove dovevano essere, le stesse foto dell'appartamento. Quindi tipo le foto erano tipo quelle di una reggia, magari c'era anche, non so, la piscina in soggiorno, le massaggiatrici. Ma questo è il risultato della standardizzazione nell'edilizia, no? Tutte le case vengono uguali e quindi... Esatto, forse. E a proposito di appartamenti, voi adesso dove siete? Proprio in questo momento? A casa vostra o...? No, è circondata dal nastro della polizia. Perfetto. Siamo in un appartamento, non è proprio nel comune di XL, è in un comune vicino, che però è tutto un agglomerato urbano, l'unico agglomerato urbano di Bruxelles Capitale. È abbastanza in centro, è a praticamente 3 minuti dove lavoro io, a quarto d'ora dove lavora Andrea. Molto, molto semplice, però nello stesso tempo pulito, nuovo, ad un prezzo decente, ma è stata un'odissea trovare questo appartamento. Una discreta botta di culo, se mi è concesso dirlo. Quella ci vuole sempre. Andiamo invece con il prossimo pezzo, anche questo un gruppo belga, gli Uberphonic. E noi abbiamo scelto un pezzo che è Every Time We Live Together We Die A Bit More, e l'ho scelto perché volevo collegarlo così ai coinquilini eccetera, ma già prima, per tentare di collegare un pezzo, ho raccontato una storiella infinita, quindi hai già dato, Francesco. Sì, e credo che non lo farò mai più. Andiamo con gli Uberphonic. Thank you. Uberphonic, brano estratto da The Magnificent Three, lo stesso di Mad About You. Rientriamo a Bruxelles citando una grande conduttrice, direi riapritemi il collegamento con la casa per favore. Francesco, Andrea, ci siete? Ciao. Ne rimarrà solo uno. Abbiamo anche il televoto, quindi sì, sì, wow. Sì, sì, sì. State attenti a come vi ponete nei confronti del pubblico. Spero di non essere filmato. È il momento di parlare un po' del vostro lavoro, un po' più nel dettaglio. Chi vuole iniziare di due? Ora inizio io. Bene, raccontaci un po'. Come vi dicevo prima, adesso mi occupo di Europrogettazione e supporto il lavoro del mio capo, che appunto è specializzato in scrittura di progetti per il settimo programma quadro, uno dei programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Paroloni per dire che l'Unione Europea in realtà ha dei programmi che dovrebbero finanziare la ricerca scientifica in Italia. Mm-hmm. Ora, sembrano una cosa strafica, perché soprattutto quando si parla di questi progetti si parla anche di cifre molto alte, centinaia di milioni di euro anche, insomma. In realtà poi il contributo, diciamo, che l'Unione Europea dà per la ricerca dei paesi dei 27, quindi non soltanto l'Italia, è più o meno il 5% rispetto a tutto l'ammontare di fondi che gli stati mettono, quindi è una cifra irrisoria, non è il grosso del funding della ricerca europea, però è comunque interessante perché ovviamente i criteri, la tipologia di progetti sono estremamente alternativi e i criteri di selezione sono progetti altamente qualitativamente molto, molto alti. E il nodo, no, per accedere a questi fondi mi sembra essere proprio nella presentazione del progetto, giusto? Alla Commissione Europea. Sì, sono delle procedure molto lunghe, complicate, più che altro burocraticamente sfiancanti. Oltre alla qualità del progetto, che deve essere fondamentale, però è anche la maniera in cui viene presentato che ovviamente incide. Okay. Molto meno di quello che uno penserebbe, in maniera molto, molto, come dire, anche politically not correct. Uno penserebbe sì, l'Unione Europea, basta, come dire, basta tutta una burocrazia. In realtà no, nel senso è molto, molto contenuto. Molto, mi viene da parlare in inglese, ragazzi, scusatemi. Il contenuto è fondamentale, ovviamente, però è ovviamente fondamentale anche la maniera in cui viene presentato, che per italiani per esempio non è una cosa banale, già passando, iniziando a parlare della lingua, la maniera in cui si spiega la lingua in inglese. Certo, e tu sei soddisfatto della formazione che ti sta dando questo stage? Com'è lavorare, diciamo, a contatto con l'Unione Europea? Ti sta soddisfando o c'è qualcosa che ti ha deluso appunto in questo approccio? Pensavo di fare qualcosa di diverso, avevo un'idea diversa dello stage all'inizio. Pensavo che fosse più, come dire, attivo, nel senso di fare più cose, imparare più cose. Però in realtà mi sta insegnando più che magari qualcosa di tecnico, di usufruibile, una lezione di vita, nel senso che certe volte bisogna mettersi col culo sulla sedia e scrivere e basta, e non c'è niente di interessante da fare. Questa è una lezione che io non imparerò perché sto già cercando qualcosa di un po' più attivo, un po' più a contatto con la gente, però sempre nell'ambito dell'Unione Europea. Però sì, definitivamente bisogna sapere come scrivere un progetto, come fare queste cose. Stai cercando sempre nell'ambito dell'energia? No, non sono un esperto di energia, però mi sono occupato di project managing all'università, quindi mi interessava vedere un po' come veniva fatto l'Unione Europea. L'ambito dell'energia è uno forse di quelli dove l'Italia riesce a pescare un po' più euro rispetto ad altri, sicuramente. Non rispetto ad altri paesi, la Germania capeggia. Il 60% dei fondi europei riguardo l'energia finisce in Germania, il resto degli altri 40 spalmati per 26 stati. Ah, ecco perché in Germania sono così bravi. No, non sono bravi, è una finzione, sono bravi a chiedere i fondi. Ok, ma nel senso son bravi, riescono a fare più cose di noi perché ricevono più finanziamenti. No, perché hanno un sistema universitario migliore, per cui riescono a farlo figurare in una maniera talmente buona, in realtà lo è, che riescono a ottenere più fondi per la ricerca. Qui è un cane che si morde la coda: se non hai un ottimo sistema universitario non puoi chiedere fondi per la ricerca e quindi non puoi migliorare il tuo sistema universitario. Però visto che diciamo, come dicevo prima, è il 5% dei fondi che vengono spesi annualmente per la ricerca, quelli che vengono fuori da Bruxelles, quindi non è proprio un cane che si morde la coda, è più che altro la cartina tornasole di quello che sappiamo già, che il nostro sistema universitario italiano fa cagare. Olè. E per quanto riguarda Andrea invece? Ah, io faccio una cosa un po' diversa, nel senso che comunque mi sto specializzando sul Parlamento europeo, quindi seguo il funzionamento del Parlamento europeo, la sua struttura, quando si riuniscono, quando non si riuniscono, cosa fanno quando non si riuniscono, cosa fanno quando si riuniscono. E quindi... E se fanno qualcosa quando si riuniscono. Esatto. E quindi cerco un po' di capire in questo marasma un po' come funzionano, quindi guardo anche i trend di voto, per esempio se generalmente la legislatura attuale rispetto a quella precedente vota in maniera diciamo più coesa rispetto a delle direttive nazionali, oppure se prevalgono le linee anche europee, quindi diciamo che quelli che sono nel partito dei socialisti europei o quelli che sono nel partito popolare votano in base alla loro appartenenza nazionale oppure in base all'appartenenza al partito politico. Qui il discorso comunque si fa molto, molto delicato, perché secondo me siamo in una fase in cui dobbiamo ancora capire se gli stati singoli si sentono europei o stanno diciamo appunto anche all'interno magari del Parlamento europeo solo per fare i propri interessi e per tirare acqua al proprio mulino e non all'Unione Europea intesa in senso generale, non credi? Ma sì, sicuramente, cioè diciamo che il Parlamento europeo è quello che più di tutti dà un aspetto, cioè ti dà un'idea un po', però c'è anche da dire una cosa che generalmente cambia molto da paese a paese. E poi nel Parlamento europeo generalmente non ci sono proprio i personaggi politici più di spicco nel panorama nazionale, quindi c'è anche gente che viene piazzata in Europa perché era scomoda nel paese oppure perché sostanzialmente per equilibri di politica interna vengono spediti qui. Poi io seguo in particolare la questione cioè anche tutti i dossier che hanno a che fare con l'industria, con l'energia, e quindi vedo un po' cosa decide il Parlamento e tutto. Sicuramente il Parlamento europeo è molto più, cioè anche i suoi membri molto più europeisti di quanto non siano magari gli stessi partiti nazionali da cui provengono, perché alla fine un po' ognuno alla fine fa o si comporta in base al ruolo che ricopre, e quindi quando uno è un parlamentare europeo, siccome di base è un politico, cioè vuole vedere i suoi poteri e vuole vedere i suoi progetti realizzati, quindi sarà molto più europeista dello stesso politico all'interno del Parlamento nazionale, che invece essendo nel Parlamento nazionale vorrà vedere i poteri e le cose del Parlamento nazionale protetti rispetto alle pretese europee, se vogliamo. Certo. Quindi in realtà è un esercizio interessante. E quindi queste analisi che tu fai sono commissionate dall'Unione Europea stessa o da agenzie esterne? No, sono organizzazioni esterne che sono interessate a capire un po' quali sono, come funzionano le istituzioni europee, anche perché il 70% delle norme sono fatte in Europa, delle regole che poi vengono, cioè sono fatte a livello di comunità europea, quelle che poi sono applicate negli stati. E quindi ci sono chiaramente tutte le moltissime associazioni, dalle ONG alle rappresentanze industriali e tutto, che vogliono capire queste cose per capire anche dove si può influire. E io in particolare mi occupo di queste cose per appunto quanto riguarda l'industria. Ho capito. E invece in due minuti proprio, dal momento che lavorate in ambiti che hanno a che fare con l'energia, l'industria, eccetera, che idea vi siete fatti dell'approccio dell'Europa al mondo dell'energia? Beh, questa magari, cioè, chiaramente voglio dire, ci sono due prospettive diverse. Allora, non è quella più delle ONG, più quella di Greenpeace, eccetera, che l'Europa è schiava degli interessi dell'industria, e quella degli interessi dell'industria che è che l'Unione Europea si sta facendo trascinare troppo da delle idee politiche e diciamo che non hanno nessun fondamento con il sistema industriale europeo. Che sono un po' tutti e due delle cappate, sostanzialmente. Esatto, in realtà la comunità europea sta facendo un esercizio molto difficile nel trovare una mediazione all'interno di queste due posizioni, perché cioè magari si potrebbe fare un po' di più di quello che si sta facendo, ma in realtà poi farlo concretamente e senza danneggiare nessuno è estremamente difficile, perché poi quando si prende il nucleare, in realtà gli stati che sono, hanno una maggiore tradizione nel nucleare non vogliono rinunciare al loro, alla loro autonomia da questo punto di vista. E tra parentesi, cioè effettivamente sulla bolletta elettrica che noi stiamo pagando la differenza si vede, nel senso che, cioè, rispetto a una bolletta elettrica italiana qui stiamo pagando molto meno, perché il Belgio è, pur essendo un paese non propriamente grande, ha penso tre centrali, ma compra, ha dei vantaggi, diciamo, nel comprare dalla sia della Germania che della Francia. Il discorso è molto semplice, molto semplice nel senso possiamo semplificarlo, non è molto semplice. Però quello che è stato fatto in 50 anni di esperienza dell'Unione Europea è una cosa, diciamo, è un livello di, come dire, di collaborazione tra gli stati che non era mai stato neanche immaginato nei secoli precedenti. Cioè, basta studiarsi un po' di storia e vedere che, certo, in realtà la collaborazione che c'è adesso tra gli stati è qualcosa di mai visto nella storia, da che esiste lo Stato. Da che esiste il potere. Quindi è una cosa molto complicata ed è ovvio che tutti quanti cercano di metterci un po' i propri interessi, quello che succede a Bruxelles. Però anche qui l'interesse è istituzionalizzato, più o meno. Mm-hmm. C'è delle forme precise nel quale i ragazzi, i poli di interesse possono, gli stakeholders, come si dice, possono influire. Si vede che hai fatto project management. Ma ragazzi, voglio parlare italiano. Allora, mi parli della work breakdown structure? No, allora, interrompiamo questi discorsi pur interessanti per seguire la nostra programmazione e il prossimo pezzo che io ho scelto, e sono i Front 242 con Headhunter. We'll be right back. erano i Front 242, un gruppo belga ovviamente scelto perché è un gruppo fondamentale per la scena elettronica e uno dei fondatori del cosiddetto movimento EBM, cioè Electronic Body Movement. Comunque torniamo a noi in trasmissione e chiediamo a Francesco e ad Andrea come gli sembra Bruxelles come città, se è vivibile e le caratteristiche appunto che stanno rintracciando in questa città. Ma siete sicuri? se volete, altrimenti abbiamo la domanda di riserva. La busta, apriamo la busta. A, B o C? No, che Bruxelles, allora sostanzialmente per cut it short, facciamo Bruxelles for dummies. No, è per tagliarla in breve, per farla corta, insomma, per uno che ha studiato comunque scienze politiche a carattere internazionale o ha intenzione di avere una carriera comunque internazionalistica o che vuole semplicemente togliersi lo sfizio e vedere come funziona veramente, come ci si sporca le mani veramente fuori dall'Italia, è necessario passare a Bruxelles prima o poi, secondo me. Solo che la città in sé per sé non ne vale la pena, perché io parlo da abruzzese, piove sempre, fa freddo, è passata l'estate qui a Bruxelles, come già lo dicono tutti quanti, ah che bella questa estate che è passata, come è passata? Siamo a maggio, ma stai scherzando, ho fatto non ti aspettare di meglio a giugno o a luglio, e ieri sera siamo usciti, c'erano 12 gradi e siamo usciti col giubbotto di pelle, per farti capire. È molto, come dire, non è una città morta, è viva, perché ci sono gli internazionali che la ravvivono, altrimenti sarebbe poco... Sì, tra l'altro c'è una percentuale di stranieri che è altissima, cioè 50.000 abitanti su 140.000 della municipalità di Bruxelles e basta, ovviamente parliamo, sono non belgi. Quindi... Sì, perché ci sono... Mi sa che solo metà di quelli, se non di più, sono funzionari europei, sì, delle varie istituzioni. Poi ci sono tutte le rappresentanze, tutte le società, le ambasciate che hanno magari, o comunque le società private che hanno la sede qui a Bruxelles. Ma devo dire che la città chiaramente non è molto grande, non può offrire cose, cioè la stessa vita che offrono magari altre città, come potrebbero essere Parigi, Londra o la stessa Berlino. Però allo stesso tempo ha un... diverse iniziative, magari molte all'aperto durante il periodo estivo, perché comunque la cosa carina è che c'è sempre luce fino a tardi, quindi fino alle 9, il sole tramonta tipo alle 9:30 di sera, quindi fino alle 9:30, alle 9:30 di sera è come essere diciamo alle 6 da noi, c'è la stessa luce e quindi questa cosa è molto carina. Poi sì, è particolare, poi la cosa simpatica è questa divisione, perché Bruxelles è fiamminga, cioè è vallona anzi all'interno della comunità fiamminga, quindi hanno un sacco di tensioni tra francofoni e invece diciamo madrelingua fiamminghi, quindi più simili all'olandese. L'olandese, sì. Esatto, tant'è che la chicca della settimana è che nella metropolitana non si può più ascoltare musica in francese, cioè la società che gestisce la metropolitana per pari opportunità non metterà più musica in francese, ma metterà solo musica in inglese, in spagnolo e in italiano, così non da accontentare la comunità fiamminga e quindi da non creare... Sì. Ah, quindi c'è una specie di lega praticamente, anche a livello di intelligenza. Fa ridere in confronto ai fiamminghi, ma fa ridere, ma la grande, questi vogliono la separazione, ma non parlano, non fanno le riunioni a Pontida, fanno le manifestazioni in strada con le patatine fritte, però quando vanno in Parlamento poi litigano sul serio, nel senso che questo paese non ha un governo praticamente da un anno, perché i fiamminghi e i valloni non si mettono d'accordo. Non si mettono d'accordo sulla rappresentanza, quindi cioè persino l'Iraq è riuscito a trovare un governo in 9 mesi. E sta diventando un po' la striscia di Gaza, la striscia di Bruxelles, la striscia di Bruges. Quindi insomma ne viene fuori un po' una città che è fortemente incentrata su quello che è il suo ruolo istituzionale, però tolto questo forse un po' il resto lascia un po' desiderare, o è una mia impressione? Ma cioè diciamo appunto, voglio dire, ci sono persone che la amano e persone che la odiano, secondo me è un po' una via di mezzo, nel senso che può essere cioè io almeno mi ci vedrei non per tutta la vita, per un periodo abbastanza, diciamo, corto, si può fare. Poi ci sono sicuramente altri posti molto più interessanti, molto più, più vivaci, però è comoda perché da Bruxelles puoi arrivare ovunque, quindi tipo in un'ora di treno sei a Parigi, in due ore sei a Londra, quindi se uno vuole farsi un fine settimana molto più carino, prende l'Olanda è a due passi e va a Londra, la Germania a due passi, sì, ma sì. Poi c'è anche da dire che a Bruxelles la comunità internazionale, nel senso di quelli non valloni o non fiamminghi, è spaventosamente alta, ma più che altro quella italiana è veramente ridicola, nel senso siamo il secondo gruppo etnico dopo i belgi. Ecco, proclamate l'indipendenza anche voi. No, ma il capo, diciamo il politico di spicco della comunità fiamminga si chiama Dicento, cioè è abruzzese, capito? Dicento è un cognome abruzzese, io non so dove venga questa persona, però è tutto fuorché belga. Sì, questo l'avevamo intuito in effetti. E sì, beh, tra l'altro Bruxelles mi sembra anche molto ben servita, tanto per fare la solita pubblicità alla Ryanair, credo ci siano un paio di voli o due o tre voli al giorno addirittura, quindi in effetti come punto così d'inizio per magari un giro tra l'Olanda o la Francia potrebbe essere buona. Francesco, potremmo chiedere un contratto di sponsorizzazione con Ryanair? Sì, io già l'ho fatto, non te l'ho detto per intascarmi tutti i diritti, ma sono stato un po' tagliato fuori dalle percentuali, mi sembra, eh? Sì, però se vuoi, visto che adesso devi dare i contatti, puoi mettere in mezzo qui e lì un Ryanair, Ok, allora se volete appunto arrivare in radio potete prendere un volo Ryanair da qualsiasi posto in Europa tranne dall'Islanda, perché ci sono i vulcani che rompono. Mentre invece se volete scriverci una mail basta scrivete a info.bandieragialla@gmail.com oppure info@ryanair.com. Se volete seguire la trasmissione in diretta in streaming andate sul sito di Radio Sandona www.radiosandona.it oppure prenotate un volo su Ryanair nel sito di Ryanair. E invece se volete non avete tempo quando c'è la puntata dalle 21 alle 22 il mercoledì, potete andare nel nostro blog con tranquillità ascoltarvi il podcast o scaricarvelo da nowboardingrsd.wordpress.com. Questo ancora su Ryanair non c'è, ma ci sarà presto e sarà disponibile direttamente negli aerei. Allora, siamo giunti in conclusione di questa bellissima trasmissione con due bellissimi ospiti e vogliamo salutarci con un brano speciale che ha scelto Francesco. Come mai, Francesco? No, ok, non facciamo adesso saluti i parenti da casa, così. No, i miei programmi, ecco, per favore, anche perché i tuoi parenti sai che non vogliono assolutamente ascoltare questa trasmissione. Esatto, io... Esatto, raccomando a tutti quelli che non sono interessati di non ascoltare questa canzone, non lo fate. No, scherzi a parte, perché ci tenevo, nel senso che a parte il fatto che il ragazzo che la suona è un nostro comune, quindi comunque supportiamo la produzione di musica fatta come si deve da persone che conosciamo, che non sia Lady Gaga. Perché voi conoscete Lady Gaga, no? Perché adesso non so. è mezza abruzzese, ma anche Lady Gaga, quello di Bruxelles è abruzzese, tutti abruzzesi sono. E quindi voi avete scelto il brano di Rodolfo Toè, Abitudini, che chi è Rodolfo Toè tra l'altro, Francesco? È uno della famiglia di Nowboarding, è quello che ci ha raccontato Sarajevo, altra gran puntata di questa stagione di Nowboarding. È una mafia qua, eh? Sì, sì, sì, sì, sono tutti un po' raccomandati. Comandati da Anna Scarmocino, ci teniamo a dire. Che è il nostro contatto, lei sta a Berlino, però prende persone da tutta Europa e le invia a Nowboarding. Ah, bisognava chiamarla con uno pseudonimo, così abbiamo l'abbiamo smascherata. Vorrei sottolineare. Bene, come si intitola questa canzone, Lorenzo? Con questa allora, ci salutiamo. Si intitola... Capisce tutto, si intitola Abitudini. Sì, ho scelto questa canzone tra le tante di Rodolfo che abbiamo registrato insieme, tra l'altro, perché e si chiama Abitudini perché proprio parla di queste cose di cui bisogna abituarci, sì, specialmente in questo periodo della nostra vita, e per me è stata molto, molto utile perché sentivo che c'era qualcuno che come me ha dovuto assorbirsi le situazioni poco piacevoli e ci si è dovuto abituare e credo che possa essere, insomma, utile per tutti quelli che anche prossimamente ascolteranno Snowboarding o sono comunque fuori dall'Italia e dovranno abituarsi a cose che non si aspettavano. Certo, grazie mille Francesco, grazie mille Andrea. Ok, e... quindi io direi a song for everyone who is kicking hassles. Direi di sì. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Gelo che c'è fuori, devo abituarmi agli sguardi delle persone, al loro cicaleccio, alla loro depressione. Devo abituarmi ai weekend al mare, devo abituarmi a bere fino a scoppiare, devo abituarmi a non finire gli esami, devo abituarmi a stringere le mani. Sulle grondaie devo abituarmi a scrivere canzoni, devo abituarmi alle notti nelle stazioni, devo abituarmi agli ingorghi autostradali, devo abituarmi alle circostanze eccezionali, devo abituarmi alla stagione dei temporali, devo abituarmi alle rime. Devo abituarmi a milioni di camerieri, devo abituarmi ad aspettarti sugli scogli del tempo che mi dai, del tempo che mi togli. Devo abituarmi alle piccole mance del cuore, devo abituarmi alle incazzate sull'amore. Devo abituarmi alle porte che non so aprire, devo abituarmi. Thank you.